Va bene, incominciamo questo incontro tra friulani e triestini. Siamo siamo nel pieno di un problema dell'oggi, perché contemporaneamente a questa riunione di giovani ce n'è un'altra di giovani veri, l'Assemblea Antifascista di Milano, quei compagni che nelle settimane scorse si sono dati tanto da fare a sostegno di Ilaria, la vicenda di Budapest, eccetera, che però non c'è stato verso di far convergere qui questa sera. E quindi il problema della socializzazione delle conoscenze e della memoria storica ce l'abbiamo proprio davanti, esemplificato. E noi come Calusca non abbiamo una soluzione per questo problema, che però è davvero esiziale, perché riguarda la possibilità di andare avanti, di continuare l'attività e riprendere tutto quello che può ancora servirci dell'esperienza storica, della riflessione su di essa. Ci tentiamo, riproveremo. Settimana scorsa ho portato a questi ragazzi il libretto di Sergio su ceti medi ed estremismo di destra in Italia. È piaciuto, magari si riesce a fare qualche cosa a partire da quel testo, che ha un carattere introduttivo. Ripeto, non abbiamo, personalmente io non ho idee su come si possa colmare questo gap. È un fatto che i giovani, anche quello strato di giovani che vogliono continuare a battersi, che brigano, eccetera, però di fronte alla pagina scritta pattinano, non c'è. Come si farà? Si è tentato anche con altri supporti, con altri strumenti. Sicuramente i podcast funzionano meglio del testo scritto, però anche quella non credo che sia la risoluzione. Probabilmente saranno le cose a produrre nuovi interessi, nuove disponibilità, a consentire l'incrocio delle esperienze. Intanto noi andiamo avanti, cerchiamo poi sempre di far circolare quello che viene discusso in questa sala, che a volte è un po' più piena, a volte meno, però comunque è una particella nella città. Non abbiamo mai valutato le iniziative in base a criteri di successo, però abbiamo proprio come cruccio questo dare delle mani, dei corpi, delle istanze pratiche alle idee. Ecco, stasera non nella coincidenza temporale, ma in relazione al giorno del ricordo e a tutto il battage mediatico a riguardo, Sergio ha proposto di presentare questo testo su una vicenda estremamente tragica, di cui poco si sa. In generale la pubblicistica italiana su Ustascia, su quello che avvenne durante la guerra è scarsa. A parte i libri di Scotti c'è davvero poco. Quindi va salutato con piacere questo testo, che illumina quella situazione. Come riuscire a strappare la memoria di quegli anni al confezionamento mass mediatico e politicamente orientato in senso nazionalista di destra, è uno degli altri problemi che abbiamo di fronte. Non so neanche quanto a Trieste circolino questi testi. C'è Sciur Asterios che lavora come un dannato, ma quanto riesca a far circolare i materiali che produce, francamente non lo so. Questo magari... Oggi, se per esempio ci sono due situazioni, una diciamo che si è prefissa un po' la ricostruzione della memoria, dove ci sono moltissimi sloveni, tra l'altro, che fa capo a Rifondazione, adesso un altro gruppo, un altro giro, che ha conquistato alcuni seggi nel Consiglio Comunale e sono parecchi giovani, insomma, no? Anche questo mio testo di cui tu parlavi, dovremmo presentarlo e pare che sia accolto piuttosto bene, cioè tutto sommato io vedo che si sta svegliando qualcosa. Ecco, vi do direttamente la parola, non ho altro da aggiungere se non questo, insomma, questo rovello, magari a qualcuno viene in mente un'idea brillante ed efficace. Ecco. Chi è che inizia di voi due? Vai. Io voglio dire due parole proprio sulla di carattere generale. L'anno scorso, in relazione alla stagione del ricordo, abbiamo proiettato dei filmati che ricostruivano un po' la storia di quelle zone e così via. Quest'anno lo facciamo con questo libretto. È interessante, l'autore Paolo Budinic è il figlio di questo grande fisico teorico che ha fondato il Centro di Fisica Teorica di Trieste, che è una storia di per sé interessantissima, perché oltre a essere uno dei centri mondiali della fisica teorica, è stata costruita in gran parte per merito sia del suo padre, ma soprattutto di un fisico pakistano. Noi pensiamo oggi appunto ai pakistani, no? Questo fisico pakistano poi è diventato un premio Nobel, ed è stato lui a creare, diciamo, una rete di interesse nei fisici a livello mondiale su Trieste. E l'autore di queste paginette, diciamo, è il figlio. Suo padre è stato ricordato di recente, è veramente un grande personaggio, ed è una storia assolutamente incredibile quella del Centro di Fisica Teorica, insomma, che adesso non sto... L'anno scorso abbiamo fatto così, quest'anno direi una delle cose più incredibili che sono successe in Parlamento qualche giorno fa, cos'era l'8 febbraio, dunque hanno portato, voi sapete che esiste questa legge in base alla quale si finanzia la giornata del ricordo. Hanno stabilito non so quanti milioni di euro e vengono distribuiti sostanzialmente alle associazioni degli esuli, o comunque a tutte delle associazioni che fanno capo all'estrema destra. Allora a questo punto qua l'AMPI ha protestato e ha detto vabbè, questi soldi però diamoli anche agli istituti storici, che si sono sempre occupati di questa roba, no? Tra l'altro, perché una delle più grandi truffe che stanno raccontando è che si è negata la storia, non se ne è mai parlata. Quando nasceva la Meloni, che è nata nel 77, nasceva il progetto che è stato portato avanti l'Istituto Storico della Resistenza di Trieste, di fare proprio la storia dell'esodo e la storia delle foibe. Quindi è stato tutto tirato fuori ampiamente proprio dagli storici di sinistra tra il 1980, che è stata pubblicata sta roba, e negli anni successivi. Questi qui 40 anni dopo vengono a dire ah, voi avete nascosto tutto. Vabbè. Allora, pochi giorni fa appunto hanno portato di nuovo in Parlamento sta roba, e una deputata, credo di sinistra qualcosa, ha detto beh, noi proponiamo almeno questi soldi o essere dati soltanto agli esuli, associazioni di esuli che sono notoriamente da sempre fasciste, li diamo anche agli istituti storici. E hanno bocciato tutti questi proposte di emendamenti, sono stati bocciati. Bene, malgrado questo, che li abbiano bocciati gli emendamenti, nella votazione finale il PD e il Movimento 5 Stelle hanno votato a favore. Cioè questa roba è passata col voto del PD e del Movimento 5 Stelle a cui uno, quindi per dirvi a che punto siamo, insomma, c'è praticamente niente da fare. Comunque, vuol dire, la cosa, perché oggi, secondo me, su queste cose qua puoi tirare fuori molte cose? Beh, primo perché sta roba è continua. Cioè, quando è stato proprio l'altro giorno, sono andato a vedermi, c'è un bellissimo sito, non so se voi lo conoscete, Osservatorio Balcani Caucaso. Se voi andate a vedere questo sito, è molto ben fatto, Eric Gobetti ci collabora spesso e così via. Sono andato a vedermi un filmato sul bombardamento del ponte di Mostar durante l'ultima guerra, no? Che è stata uno dei gesti simbolici più drammatici, no? Perché il ponte era il simbolo dell'unione tra cristiani e musulmani praticamente, no? E questa cosa qua è stata appunto fatta dai croati bosniaci e facevano vedere tutta una serie di scritte sui muri di questi qua e ogni scritta aveva il simbolo degli Ustascia. Quindi ancora oggi praticamente i movimenti neonazi che stanno piuttosto forti si rifanno alla storia degli Ustascia, no? A questo che una U è fatta così. Pensate che nel 2022 hanno devastato completamente il cimitero partigiano di Mostar, proprio spaccando sistematicamente 600 lapidi, per dire, no? Quindi sono ancora oggi e tutte le volte c'è sempre questa sigla degli Ustascia che è purtroppo una cosa che riguarda ancora l'oggi, diciamo. Quindi, diciamo, sì. L'altra cosa importante, che diciamo, come lui dirà un attimo dopo, questo regno degli Ustascia, questo stato degli Ustascia croati, è stato creato con l'aiuto di Mussolini. Cioè, i fascisti hanno sostanzialmente non solo dato manforte, hanno creato le condizioni militari per costituire questo stato croato che, diciamo, come praticamente è venuto a crearsi come una forma, diciamo, politica e militare con una certa stabilità, come suo obiettivo si è posto quello di massacrare, sterminare i serbi e in particolare gli ebrei serbi. Con dei metodi talmente efferati che a un certo punto, io non lo sapevo, me l'ha detto lui, Hitler stesso, cioè le SS stesse, le SS, sono intervenute per dire no ragazzi, no, non esageriamo. Ecco, le SS, per dire cosa hanno fatto. Una delle cose che ricordano appunto i testimoni che hanno raccolto le testimonianze, questi qui mettevano in fila i bambini ebrei e dicevano: bambini, vi piacerebbe rivederla papà e la mamma? Sì, sì, venite qua. Li portavano davanti a una fossa comune, gli spaccavano il cranio con una martellata e li buttavano. Cioè, quindi una roba di un'efferatezza veramente spaventosa, che però è stata, come dire, protetta dagli italiani. Siccome c'è sempre questa maledetta storia che i cattivi erano i tedeschi, che gli italiani hanno salvato gli ebrei, eccetera, questa è un'ennesima, come dire, dimostrazione, no? Appunto che tra l'altro noi ci siamo puliti cercato di pulire con una nostra responsabilità nella Shoah, perché poi una delle cose che dico in questo piccolo libretto, che una delle, diciamo, secondo me, ragioni per cui è rimasto in vita anche un sentimento, un'idea di estrema sinistra, destra in Italia, dovuto al fatto che con la storia della Resistenza noi ci siamo autoassolti. No, la Resistenza dell'Italia ha fatto sì che noi eravamo comunque un'azione belligerante, eccetera, eccetera, eccetera. Ho ricordato tra l'altro quando e come è stata dichiarata guerra dall'Italia alla Germania, nel senso che dopo l'armistizio del 1943 lo stesso Eisenhower ha consigliato a Badoglio di dichiarare guerra alla Germania. Perché? Perché in questo modo i prigionieri, cioè gli internati italiani, quanti erano? 600.000? Qualcuno dice anche 800.000. Ecco, tra cui anche mio zio, eccetera, no? Che sono stati portati in Germania, avessero almeno lo statuto di prigionieri di guerra e quindi potessero, come dire, godere delle solite convenzioni della Croce Rossa. Hitler non ci è cascato in questa cosa qui, ha detto no, questi erano... non sono prigionieri di guerra, sono internati militari e li ha trattati in un altro modo. ma è incredibile. Ho riportato il passo in cui questo consigliere d'ambasciata italiana racconta come lui è stato costretto a Madrid a portare la dichiarazione di guerra all'ambasciatore tedesco, no? Perché Badoglio ha detto allora facciamo questa dichiarazione di guerra passando dalla Spagna, che era allora paese neutrale, no? Fascista ma neutrale. Allora questo qui va all'ambasciata tedesca, viene accolto appunto come il camerata italiano con grande e dopodiché dà a questo qua la lettera, questo apre e quasi sviene, dichiarazione di guerra. Questo qua a un certo punto dice no, io questo non l'accetto, questo qua dice mi dispiace, la guerra, la dichiarazione di guerra è stata contro di voi. Ed era lì che pensava, dice questi qua mi arrestano, mi fanno fuori. Per cui dice fortuna sono riuscito a scappare. Pensate che razza di storia questa qua. Vabbè, quindi dico, questa storia qua, diciamo che con la resistenza noi ci siamo autoassolti, no? Questa cosa qua non va bene, cioè, infatti Angelo Del Bocca con tutto il lavoro che ha fatto, non è vero che gli italiani sono brava gente, hanno fatto delle cose, usato le armi chimiche in Africa eccetera, queste cose qua devono essere tirate fuori, perché se noi ci pensiamo un attimo, qui finisco, il maresciallo Graziani, questo criminale di guerra che ha usato le armi chimiche in Africa, che poi è stato responsabile militare, diciamo, dell'esercito di Salò, siccome temeva di essere fatto fuori dai partigiani, si è consegnato agli inglesi, no? E quindi ha salvato la pelle. Questo qui ha potuto diventare presidente del Movimento Sociale Italiano, che non è successo neanche in Germania. C'è il partito neonazista in Germania, che è nato nel 1953, non aveva questa continuità con la Repubblica di Salò come hanno avuto gli italiani. Quindi Graziani ha potuto fare il presidente di un partito riconosciuto dalla Repubblica Italiana, morire nel suo letto, così come è morto nel suo letto Pavelić, tra l'altro, no? Il capo degli Ustascia. Quindi c'è tutta questa serie di complicatissima di rimozioni, di mistificazioni, eccetera, pesa naturalmente oggi come un macigno su questa storia, sul modo in cui... Se voi pensate con questa storia delle foibe, che è diciamo, un piccolo dettaglio nell'immensa tragedia della Seconda Guerra Mondiale, questi qui tengono in scacco praticamente la memoria della sinistra, no? Ed è per questo che appunto io sostengo a questo punto dobbiamo noi dire facciamo una giornata della memoria vera, ma non quella della Shoah, quella della guerra, perché bisogna ricordare cosa è stata la Seconda Guerra Mondiale, perché tra poco i giovani non sapranno più nemmeno cosa è stata, cioè non sapranno che noi abbiamo combattuto per dare manforte a questo criminale come Hitler, insomma. Ben, qui io mi fermo, tu ne racconterai molte più cose. Beh, hai toccato tanti di quegli spunti che potremmo parlare per ore e ore e ore, no? Perché dal dettaglio di un campo particolarmente ferrato gestito da fanatici iperfascisti come erano gli Ustascia, no? Possiamo anche salire un pochino alle dimensioni più generali di quello che è successo durante e anche dopo la guerra mondiale. Perché il punto che a me preme abbastanza spesso di chiarire non è tanto la narrazione del singolo episodio o della singola cattiveria, che era la dimensione comune, diffusa, di tutti i fascismi che sono nati dopo l'invenzione del fascismo da parte di Mussolini nel 19. Ma prima dell'invenzione del fascismo, no, c'è da dire che Mussolini, corrotto e corruttore, era stato finanziato ampiamente in particolare da Giovanni Agnelli, il grande industriale che ha fondato la Fiat, no? Senatore fascista, eccetera, da Giovanni Pirelli, altrettanto industriale, altrettanto fascista, che gli hanno regalato praticamente la tipografia del Popolo d'Italia per fare la campagna interventista, no? E ottenere poi ovviamente tutti i benefici conseguenti da un'economia di guerra, eccetera, eccetera, no? Quindi abbiamo un quadro di storia che va inscritto, va inquadrato proprio nella lotta di classe. Nella lotta di classe con gli industriali da una parte e con la repressione poi fascista e di tutti i fascismi successivi, no? Dal 19 in avanti gli agrari italiani e gli industriali italiani hanno finanziato lo squadrismo fascista, no? Che ha strumentalizzato i reduci dalla prima guerra mondiale. In Germania le camicie brune, che erano più di centinaia di migliaia, qualcuno dice che erano più di 300.000, ma erano 300.000 di un gruppo paramilitare, no? Gestito militarmente, mantenuto, foraggiato, armato, eccetera, eccetera, di oltre 300.000 persone, no? Che vivevano in caserma, venivano addestrati militarmente e così via. No? Il squadrismo italiano nasce a Trieste, no? Lo sapete. La prima azione squadristica è stata l'incendio del Narodnikov, che era la casa degli sloveni, sì. Nel 1920. Contemporaneamente però a Bolzano i fascisti di quello di Ferrara, Farinacci, sì, no? Hanno fatto una marcia su Bolzano, hanno occupato il comune di Bolzano, hanno estromesso il borgomastro, no? E hanno ammazzato un maestro elementare che era lì con la sua scolaresca, buttandogli una bomba a mano, per cui le prove di squadrismo, no, sono state fatte a Bolzano e a Trieste, nei luoghi dove dopo il fascismo ha fatto le politiche di italianizzazione forzata, no? E di denaturalizzazione degli sloveni, dei croati e dei sudtirolesi. E poi non c'è da meravigliarsi, tornando poi al tema delle foibe, che nel 43, nel momento in cui c'è immediatamente dopo l'armistizio, c'è il crollo dei fascismi locali, che c'è uno scoppio di rabbia popolare che ammassa tutti i quadri fascisti. Le prime foibe, no, sono del settembre-ottobre del 43, ma sono da ascrivere a vendetta personale, vendette personali di gente che era stata oppressa nei vent'anni precedenti, ma sistematicamente erano dai fascisti, no? Una cosa che mi pare vada anche ricordata e sottolineata era che l'Istria è stata italianizzata, ma con l'importazione di quadri e di fascisti che erano poi i maestri, erano quelli quelli che dovevano italianizzare le popolazioni slovene e le popolazioni e i croati, no? Ma li hanno italianizzati a forza, no? Con la violenza, costringendoli a parlare l'italiano, costringendoli a cambiare i cognomi e così via, no? Quindi le politiche che sono state fatte da quelle parti e anche in Alto Adige contro quelli che Mussolini definiva barbari, no? Il discorso di Mussolini a Trieste è chiarissimo quando parla della civiltà romana che deve essere esportata e imposta con la violenza. Quindi non c'è da meravigliarsi che a un certo momento succedano certe cose. Cosa fanno i neofascisti o comunque tutte le destre oggi, no? Intanto fanno datare il periodo degli infoibamenti dal 43, no? Li attribuiscono alla cattiveria e alla crudeltà dei titini, no? E dimenticano scientemente tutto il periodo precedente, no? Voglio ricordare un piccolo episodio che mi hai fatto venire in mente. Perché questa supremazia, come dire, culturale, per cui le destre riescono a far passare il revisionismo o addirittura a mistificare la storia, no? 2 anni fa l'intero Consiglio Comunale di Milano ha votato all'unanimità non solo il PD ma anche i rappresentanti dei partiti che stanno a sinistra del PD una mozione di decorato che impegnava la giunta milanese a fare per l'anno successivo un grande convegno sulle foibe, no? Naturalmente il periodo foibe esodo, non quello precedente. La giunta ha dato incarico alla Casa della Memoria di ragionare su questa cosa qui, naturalmente noi l'abbiamo fatta passare sotto silenzio ed è morta lì. Però quello che è serio e che è grave è la non conoscenza della diffusissima di tutta la classe politica dei nuovi politici, no? Che non sanno, non riescono a inquadrare le ragioni per cui ci si trova, le ragioni per cui è scoppiata la guerra, le ragioni per cui la guerra è stata vinta o è stata persa, le ragioni per cui le radici dell'antifascismo sono completamente dimenticate, no? E questo è il dato di fatto con cui ci dobbiamo scontrare e misurare quotidianamente. Per tornare un po' a bomba, questo qui è un libretto veramente piccolo, ma estremamente interessante, estremamente denso, no? Perché racconta intanto una storia che è poco conosciuta, come è poco conosciuta tutta la vicenda del confine adriatico. È sbagliato definirlo confine orientale perché pone una specie di cesura fra l'Italia e i popoli che stanno a est, no? E mi sembra più corretto chiamarlo confine adriatico, no? Dove i fascismi, lo ricordava Sergio, il fascismo italiano ha finanziato in Croazia gli Ustascia, ma poi c'erano in Serbia delle altrettante milizie che avevano la stessa cattiveria, la stessa efferatezza, e sono i cetnici, no? E poi la divisione fra gruppi etnici, che risale alle ideologie di tipo nazionalistico. E allora, se vogliamo andare a cercare un po' le ragioni, andiamo a vedere all'inizio del Novecento, no? Che si formano il concetto di nazione, che corrisponde alla lingua, no? E che si consolida in tribalismi, in rivalità di tipo anche razzistico, anche, no? Per cui l'odio degli italiani verso gli austriaci, l'odio degli italiani verso gli sloveni, verso i croati, verso i tedeschi e così via, no? Scoppia la prima guerra mondiale, che è lo scontro delle nazioni e dei nazionalismi, che produce un massacro, una macelleria inenarrabile e incredibile, ma produce anche milioni di gente che, dovendo combattere la guerra di trincea, cioè il combattimento ravvicinato giorno per giorno dalla trincea, che poi era un posto ferocissimo, no? In cui c'era il fango, il freddo, il caldo, i pidocchi, la promiscuità e così via, e l'assalto quotidiano alla baionetta, all'arma bianca, contro degli altrettanti disgraziati che stavano a 50 metri di distanza. Cos'è il risultato che accomuna tutti i reduci di tutti i fronti contrapposti? La disumanizzazione. I reduci non concepivano non davano nessun valore alla vita umana, no? Per loro uccidere era la cosa assolutamente normale, tranquilla, serena, accettata. E questi massa di disgraziati, che poi erano proletari, contadini, senza un mestiere, senza una particolare cultura, senza un futuro, no? Sono stati arruolati dai fascismi, dai nazisti, da tutti i fascismi d'Europa, strumentalizzati e inquadrati, no? E utilizzati per una vera e propria lotta di classe, perché se andiamo a vedere quello che è successo dal 19 al 22, fino alla, poi un pochino più avanti, fino alla proclamazione della dittatura, no? L'uso della violenza, il culto della violenza, il culto della bella morte era l'ideologia, la retorica imperante, che comunque era tollerata da chi? Dalle classi dominanti, dalla monarchia, il ruolo di Vittorio Emanuele III per favorire l'ascesa e l'affermazione di Mussolini è assolutamente evidente, è quello che non ha firmato lo stato d'assedio chiesto da Facta, no? E ha consegnato a Mussolini il potere, ed è quello anche che ha firmato le leggi razziste, che è quello che poi ha tradito l'8 settembre, no? Vigliaccamente, fuggendo e lasciando l'intero esercito italiano in braghe di tela, per cui poi i nazisti ne hanno approfittato. Quindi un percorso che ha le radici le origini agli inizi del secolo e che si conclude nel 1945 con la vittoria, grazie soprattutto all'alleanza delle democrazie occidentali con l'Unione Sovietica e al sacrificio dell'Unione Sovietica soprattutto perché vincere a Stalingrado, che è il momento di svolta per cui i nazisti cominciano a perdere, no? Ma resistere a Mosca, resistere a Leningrado, no? È stato il sacrificio dell'Armata Rossa e non solo dell'intero popolo sovietico, no? E poi dall'altra parte ovviamente sono arrivati gli altri. Ma cosa succede in Italia rispetto alla Germania? L'Italia, immediatamente dopo la guerra, che cosa si ritrova? Un governo del CLN che non riesce a fare l'epurazione dei fascisti nei gangli dello Stato, no? E che con il salto della quaglia di De Gasperi, il piano Marshall e tutti quegli avvenimenti lì, che cosa determina? Determina che l'intera classe dirigente, gli alti gradi della magistratura, gli alti gradi della burocrazia, gli alti gradi delle università, gli professori universitari che rimangono tutti al loro posto, il funzionamento dello Stato rimane in mano alla classe dirigente fascista, no? E per cui ci troviamo che cosa? 20 anni di democrazia cristiana, dopo 20 anni di berlusconismo, il fatto che non c'è mai stato un rinnovamento, non c'è mai stato una presa di coscienza critica popolare e oggi ci ritroviamo poi il qualunquismo che ha portato al potere la Meloni. Dimmi. Voglio dire, cioè, non dobbiamo dimenticare l'amnistia di Togliatti. Cioè, Togliatti ha amnistiato un sacco appunto di criminali fascisti, mentre i partigiani molti partigiani hanno dovuto scappare sostanzialmente, quindi pensate a quanti partigiani che hanno dovuto scappare in Cecoslovacchia o altrove perché venivano appunto perseguitati sostanzialmente come autori di crimini, mentre appunto Togliatti poteva, e quindi avete un criminale di guerra come Graziani che continua a fare politica all'interno di un partito riconosciuto dalla Repubblica, e da lì che incomincia tutto, è da lì, da questa mostruosa, se vogliamo, no, cancellazione, è lì che si incomincia da parte della sinistra a cancellare il passato, E questo, tra l'altro, se noi andiamo a vederlo invece quello che è successo in Jugoslavia, adesso per tornare al nostro cosa, quando Tito vince, lì effettivamente a questo punto non ha pietà per i vinti, no? Per cui quando si parla delle foibe di quelli che sono stati in particolare italiani gettati in foibe, eccetera, dimentichiamo del fatto che, i domobranci sloveni, cioè gli nazisti sloveni, sono stati massacrati a migliaia, e ancora di più i serbi. C'è lo storico sloveno triestino Pribicevic, che oggi è uno degli storici più accreditati di questo periodo, che essendo sloveno lo guarda le cose in un certo modo, scrive nel libro appunto dedicato a Tito che hanno massacrato 100.000 serbi cetnici e collaboratori, cioè c'è stata una spietata vendetta, no? Nella Jugoslavia, e questo ha creato all'interno della Jugoslavia una serie di problemi che poi certamente sono scoppiati negli anni della guerra, perché hanno lasciato delle ferite comunque, bisogna tenere conto di tutte queste cose. Ciononostante appunto alcuni dei principali, in fondo a questo volume, no, c'è l'elenco dei principali responsabili di questo campo, 2/3 ce l'hanno fatto franca, a cominciare da Pavelic, che con l'aiuto del Vaticano è scappato in Spagna ed è morto a Madrid. Come tanti criminali fasciti che sono scappati in Spagna o nella, diciamo, nell'America Latina. Quindi diciamo questo momento qua degli ultimi mesi di guerra, dei primi mesi del dopoguerra, è stato determinante su quello che è successo dopo, sostanzialmente. Molto va ricondotto a quelle cose che sono tra l'altro comprensibili, perché io mi ricordo che noi abitavamo a Trieste, mia madre era malata di tubercolosi e non poteva lavorare, quindi avevamo sempre bisogno di persone che ci aiutavano a casa. Una volta è venuta a lavorare da noi come domestica, mi ricordo, una ex partigiana bosniaca. Cioè, sentire come lei parlava, diciamo, della guerra, come se lei si esprimeva, ma si esprimeva con la stessa ferocia con cui si esprimevano questi qua. No, una delle frasi che diceva: se mi trovo tedesco, mig cavo cuor, no, cioè, per dire. Quindi diciamo era una situazione insomma, che piuttosto pesante. Quello che però mai non si dice, con chi finisco, scusa, questo voglio dirlo, che in tutta la storia, in questa storia qua, si continua a leggere questi avvenimenti sempre con la chiave, diciamo, etnica, mentre bisogna leggerli con la chiave di classe, come dici tu. Perché vi assicuro che ci sono stati alcuni antifascisti triestini, quelli che hanno organizzato il CLN, che hanno dovuto scappare quando sono arrivati gli sloveni, che avevano loro come antifascisti più paura, diciamo, degli sloveni di quanto avessero dei fascisti che abitavano nei quartieri popolari, perché all'interno dei quartieri popolari comunque c'era una solidarietà di classe. Come dire, i nemici di una volta si potevano ritrovare, mentre veramente la rottura è avvenuta all'interno della borghesia, perché tutto il rivanchismo, il redentismo triestino è interamente borghese, perché nei quartieri proletari si viveva insieme al sloveno, al croato, al friulano, al bosniaco, capito? Era il melting pot classico dell'industrializzazione della metà Ottocento, che aveva chiamato gente da tutto il mondo circostante, e la gente viveva insieme, parlava insieme, stava insieme sostanzialmente. Là dove c'era l'irredentismo sia italiano che sloveno, perché non possiamo dimenticare l'irredentismo sloveno, cioè, l'irredentismo sloveno sosteneva per esempio che loro, essendo discendenti degli Illiri, erano venuti lì prima dei Romani, quindi sono gli italiani che sono ospiti qui dentro. Quindi in questo casino ritrovarcisi storicamente è difficile. Scusa. Ma io volevo dire una cosa sulla riforma Togliatti. Togliatti era ministro della giustizia di un governo di coalizione. Lui ha firmato una legge che è stata però approvata da tutto il governo, e che significa anche che la dialettica all'interno di quel governo di coalizione aveva messo in minoranza i comunisti, questo tanto per no, dopodiché lui ci ha messo la faccia, no, passa alla storia come quello che però in realtà era l'intero governo che ha fatto l'amnistia, che ha voluto l'amnistia, che ha voluto recuperare i fascisti nella vita quotidiana. L'Italia non ha fatto i conti col fascismo proprio perché c'era questa situazione. Non dobbiamo dimenticare che allora la Chiesa Cattolica era talmente reazionaria e retriva, no? E lo vediamo anche dalla storia dei cattolici croati che hanno appoggiato fino in fondo gli Ustasha, no? Addirittura mandando alcuni francescani e Stepinac, che era il cardinale croato, era il cappellano degli Ustasha, no? E nominato cappellano degli Ustasha da Pio XII, quindi il ruolo della Chiesa cattolica in quegli anni là era di un reazionarismo incredibile. Quelli un pochino più anziani di noi si ricordano le Madonne pellegrine che giravano. Volevo dire, qui c'è la storia di un francescano, sì, che faceva il cappellano nel campo e quindi benediva sostanzialmente queste robe. E però arrestato nel dopoguerra e impiccato, ha voluto farsi impiccare col saio di francescano. Cos'è il saio francescano? Era tale il fanatismo. Veramente sono storie incredibili, storie di fanatismo, ma di convinzioni profonde che io credo di poter ascrivere come punti qualificanti a un razzismo endemico, no? E a un odio atavico verso i diversi, che è conseguenza però dell'essere razzisti. Nel momento in cui uno stabilisce una gerarchia fra gli altri, i diversi da sé, no? E entra dentro in una logica assolutamente perversa che lo porta, come porta questo francescano, che benediva ma uccideva, no? E le decisioni in questo campo erano fatte in modo, l'ha ricordato, erano fatte in modo particolarmente ferrato, che era quello di ammassare le persone a colpi di mazza, non a colpi di martello, no? Le mazze e le buttavano sulla nuca e il cervello si spappolava, no? Ma non era come nei lager nazisti, non erano manifestazioni di sadici, erano manifestazioni di persone convinte di fare, di obbedire tanto alla legge, di essere assolti e di fare il bene di quello che gli era conculcato. E allora, se andiamo a vedere da questo punto di vista la disumanità di tutta questa gente, che non erano poche migliaia, erano centinaia di migliaia, no? In tutti i teatri della guerra, dall'Ungheria alla Germania, alla Romania, ai paesi slavi e così via. Cerchiamo di capire questa disumanità operante. E ce la ritroviamo ancora adesso, no? Ma ci ritroviamo anche in un'opinione generale che se ci pensiamo è spaventosa. Io credo che si possa dire tranquillamente che in tutto il pianeta non esiste una situazione di democrazia, cioè di perlomeno di rapporti paritetici fra organizzazioni cittadine, no? Dagli Stati Uniti, che sono quello che sono, con Trump che diventerà il prossimo presidente alle prossime elezioni, all'Argentina, dove è andato su questo energumeno razzista, omofobo, assolutamente al di là del bene e del male, all'Europa che è quella che è, al risveglio neonazista in Germania, a sti paesi come l'Ungheria con Orbán e la stessa Polonia che è estremamente di destra, con questo neofascismo strisciante che abbiamo in Italia col governo Meloni, con questi revisionismi, con la perdita dei riferimenti più banali su quelli che sono i valori importanti dell'antifascismo che della differenza fra fascismi, autoritarismi e democratici, non diciamo di i paesi arabi, lasciamoli stare, no? Vi pare che Israele sia un paese democratico, nonostante si dica che è un paese democratico? C'è un governo di estrema destra, Hamas, iperreligiosi, ma fra russi e ucraini sono due leader e due classi dirigenti di stampo neonazista, si stanno scannando fra di loro, no? Ma in nome di che cosa? Di un nazionalismo esasperato. Allora, quando cerchiamo di analizzare i nazionalismi che hanno dato origine a tutto a questo periodo ferocissimo, però le conseguenze ce le abbiamo ancora oggi, no? E sono a livello planetario. Vi pare che la Cina sia un paese democratico? No. E quindi dappertutto siamo in una situazione assolutamente in cui le concezioni autoritaristiche e repressive sono estremamente diffuse, e noi siamo qua a cercare di tenere acceso un lumicino. per cui senti, ma l'ANED cosa fa? Tu sei presidente ANED. Io sono il presidente ANED di Milano, quello che cerchiamo di fare con i nostri 150 iscritti. Abbiamo 2.600 iscritti in tutta Italia. Cerchiamo di mantenere viva una memoria che sia una memoria appunto antifascista soprattutto, no? Una memoria che cerchi di raccontare quello che è successo, no? Ma non tanto soffermandoci sugli orrori, ma cercando di capire quali sono le ragioni, le motivazioni per cui si è arrivati all'affermazione dei fascismi in generale, e poi in particolare al disegno nazista del nuovo ordine mondiale millenario del Terzo Reich, e poi alla costruzione del sistema concentrazionario, che è la istituzionalizzazione del lavoro schiavo a favore di qualsiasi luogo di produzione in Germania, no? Quindi voi in genere siete figli di deportati? Noi siamo storicamente i figli dei deportati, o comunque adesso stiamo allargando a quelli che in qualche modo cercano di mantenere viva ma non solo quella memoria lì, no? Cerchiamo anche di dare una mano all'AMPI per ampliare il concetto di resistenza, perché quando buona parte degli ampisti mi raccontano la resistenza sostanzialmente gloriosa e armata dei partigiani combattenti, e trascurano che dei resistenti, partigiani e non solo, operai deportati e via enumerando, staffette partigiane, diffusori della stampa clandestina e così via, deportati, il numero dei morti deportati che hanno fatto la resistenza è maggiore del numero dei partigiani combattenti. Allora, e questo va ascritto sempre a quella deculturizzazione che dicevo prima, che denunciavo prima, per cui il Consiglio Comunale di Milano vota all'unanimità, a occhi chiusi, l'ordine del giorno decorato. La mancanza di radici, la mancanza di conoscenza, la mancanza di riflessione su quello che è stato, no, ci porta poi automaticamente alla situazione dei rapporti politici che ci sono adesso. Allora, il lavoro che in qualche modo cerchiamo di fare è quello di diffondere la memoria, però di far capire anche che la memoria in sé è insufficiente se non diventa storia, quindi una riflessione più meditata, più distaccata, più approfondita, ma anche la storia diventa insufficiente se non diventa politica, se non inquadra gli eventi della storia, la loro dinamica in politica. E quindi poi che poi deve arrivare, secondo me molto semplicisticamente, però credo che sarebbe importante che fosse chiaro che da una parte c'è l'antifascismo e dall'altra parte ci sono tutti gli autoritarismi possibili, i revisionismi e così via, che strizzano l'occhio al risorgere di mentalità fascistiche. E quindi è un lavoro di minoranza, un lavoro che cerchiamo di fare e finché è possibile lo facciamo. Insomma. Cosa facciamo? Chiudiamo qui? Io volevo dire due. Innanzitutto ricordare che c'è un parallelismo tra la prima azione squadristica a Trieste e la prima azione della cellula di Ordine Nuovo di Padova, perché la prima bomba, che solo per caso non ebbe conseguenze catastrofiche, fu messa alla scuola slovena di Trieste. Poi ci furono le bombe dell'aprile 69 e poi il botto di Piazza Fontana, ma anche nel caso degli ordinovisti inizia la cosa a Trieste. La seconda cosa che merita di essere ricordata, secondo me, è che la pratica dell'infoibamento iniziò nei primi anni 20, operata da parte dei fascisti nei confronti degli sloveni. E questo sicuramente valse come rammemorazione poi nel 43. Questo non sempre viene ricordato, ma avevano iniziato i fascisti 20 anni prima, proprio a cacciar giù nelle foibe gli ammazzati. E l'ultima cosa è che non soltanto c'è una permanenza della classe... della classe dirigente che era stata fascista nelle strutture dello Stato repubblicano, ma questa permanenza si trova anche negli apparati militari clandestini legati alla NATO, a Gladio, sulla base di quella presa di contatto che molti quadri militari e politici della Repubblica Sociale negli ultimi mesi hanno realizzato, consegnandosi e prendendo accordi con gli angloamericani, che poi continuerà, Russomanno è l'esempio forse, quello che diresse politicamente tutta la vicenda dei giorni successivi, delle settimane successive a Piazza Fontana, era un nazista dichiarato, e così, se si va a vedere, tutti quei quadri che poi avevano trovato ospitalità nelle strutture della NATO e che erano poi legati in grossa parte alla destra bavarese, insomma tutta una rete molto molto fitta, e non soltanto genericamente in continuità ideale, ma in una continuità pratico-militare. Ecco. Questo vale la pena di ricordarle, solo queste tre cose. Qualcuno vuole commentare? No, complicato. Comunque quello che dice lui, che Gladio non a caso nasce lì, non è un caso, insomma, che nasce lì Gladio. ricordo proprio a questi filmati che abbiamo fatto vedere la volta scorsa, a Trieste nel dopoguerra c'erano 16 servizi segreti, era la città dei servizi, e lì si incrociava l'est e l'ovest, e quindi la guerra fredda, ma è uno scontro mondiale che sta durando da oltre un secolo. È difficile immaginare, insomma, io mi ricordo da ragazzo quando andavo a fare il gito sul Carso, andavo da solo, mia madre invece diceva non avvicinarti troppo al confine perché ti sparano. Convinti che stessero lì le guardie andare a sparare. Sì, però una connotazione particolare proprio di quel territorio è che per secoli in quelle aree lì sono convissuti pacificamente italiani, sloveni, croati, bosniaci, ebrei, armeni, ungheresi e così via, no? E poi nel momento in cui appunto sorgono i nazionalismi, si disgregano gli imperi centrali, no? Ogni lingua diventa nazione e si contrappone ferocemente con l'altra, e la disgregazione poi della Jugoslavia negli anni recenti, no? Tito ha cercato di tenere unitariamente, infatti non ha rinfocolato la memoria delle contrapposizioni fra croati e serbi, ma questa storia qui è una storia di una pulizia etnica fatta dai croati nei confronti dei serbi e degli ebrei, no? Ferocissima, di una ferocia inenarrabile, no? Ma altrettanto era da parte dei serbi nei confronti dei croati o dei bosniaci e così via, insomma. Quindi i nazionalismi che oggi vengono chiamati sovranismi, una bella foglia di fico, ma è un qualche cosa che nasce almeno agli inizi del Novecento e si consolida e continua a esserci, no? Ed è questo spirito tribale che in forme quasi edulcorate ritroviamo nella curva sud quando litiga con la curva nord, no? Perché poi la mentalità è la stessa. Io non sono d'accordo a ridurre tutto il nazionalismo, perché voglio dire, ci sono state le divisioni politiche che andavano nelle famiglie, cioè quando Tito ha rotto con Stalin c'era la famiglia slovena per cui uno stava con Stalin e l'altro con Tito si ammazzava. Sono d'accordo. Ma è vero. Perché nella poi mia famiglia, mia madre era nazionalista, suo fratello era comunista. Cioè una metteva fuori la bandiera italiana, l'altro solo la bandiera rossa. Mio zio adorava Tito. Cioè lui scappava, scappava in Jugoslavia. Mette insieme nazionalismi più divisioni politiche e ideologie, no? Ma sono ben d'accordo, è chiaro, però che la realtà è molto più sfaccettata. Nazionalismo è Stato. Dobbiamo fare uno Stato. Lo Stato è ciò che ci difende, difende le nostre identità culturali, difende i nostri commerci. E la prima cosa è la creazione di Stato. Pensa che ho compiato l'89. Noi abbiamo rimosso una guerra, porca madonna, che scusate, ma l'espressione, cazzo, non si parla più da parte di Jugoslavia. No, cioè nessuna epoca più. ricordo di uno studio, mio studente che è venuto da professor, io ero a Trieste, quando stava a Lubiana, 94, 95, a scuola me, a scuola me, dove insegnavo io, mi ha detto, professore, si sparano dalle finestre dei condomini, io sono un giorno. Grazie per aver sfidato le aperte condizioni.